sono Gigi D'Agostino e devo fare un annuncino. Un momento, rallenta. Ciao, sono Gigi D'Agostino e dovrei fare un annuncino. Questo fine settimana, sabato e domenica, 1 e 2 aprile, ci vediamo in Sardegna, io suonerò lì. Dai, dai, dai. E adesso in questo momento non mi ricordo dove, perché ho perso i fogli. Una botta di tensione, scusate, ma... Sabato il primo di aprile 2006, ore 19:30, il cammino di Gigi D'Agostino ci porta alla discoteca Cube, Viale Marconi 11, località Cagliari. Il viaggio musicale continua da Luna alla discoteca Bigger, strada statale 293, località San Massi, provincia di Cagliari. Domenica 2 aprile 2006, ore 21, discoteca Blue Star in via Tisi, località Otti, provincia di Sassari. Insieme a Tempo, un bel movimento. Se vi dovesse interessare e volete saperne di più, www.gigidag.com. So many times I traveled all around the world, and I didn't know anything I was to. So many times I think about you in time, and I didn't know anything I was to. Oh, ma sto pezzo. Ti trovi con le mani al cielo e non sai neanche perché. Numero 13. Wherever. Love Transistor. Potete trovare in tutti i negozi seri di musica. Oppure, se non avete voglia di spendere soldi, potete rubarlo su internet, cialtroni che non siete altro. losing my fears. I wanna melting into tears. Fratello, mi sai dire per favore chi ha prodotto questo disco? Magna Romagna. Titolo? Pagar. We'll be right back. questo fine settimana, e cioè sabato e domenica 1 e 2 aprile, io suonerò la mia musica in Sardegna. Discoteca Cube. Ecco. Viale Marconi 11. Preciso. Località Cagliari. Ore 19:30. Il viaggio musicale continua. Sabato il primo di aprile 2006. Da Luna alla discoteca Biggest. Strada statale 293. Località San Massi. Provincia di Cagliari. Vuoi trascorrere una serata degna? Questo sabato vieni in Sardegna. Domenica 2 aprile 2006, ore 21. Il cammino di Gigi D'Agostino ci porta alla discoteca Blue Star in via Tizi, località Ossi, provincia di Sassari. Numero 7. Fantasia. Entropia sonora. Questo mi piace un po' meno, questo me lo scarico. Mo si attaccamo tutti al Vabbè, dai. Sai cosa c'è dentro di te? Si concretizza in un volo mentale. Da gioia al tuo giorno e non fa male. Ti accende quel fuoco che ti spinge a creare e ti dà la speranza per poterlo fare. Problemi di cuore? Fatevi suore. A cosa? Gigi D'Agostino. bello, bello, bella atmosfera. Chi è questo? Federico Romanzi. Sì, sì, ma il titolo della canzone. Cielo. Ah. Bellissimo. Ma lo compro questo. Bello, bello. Grande momento.